Domenica 20 aprile 2025, sono le ore 19.02. Naturalmente buona Pasqua, anche se sicuramente lo ascolterete con qualche ora e chissà, forse anche qualche giorno di ritardo. In generale queste registrazioni non sono legatissime alla stretta attualità. Avrei voluto augurarvi buona Pasqua con qualche argomento edificante e invece purtroppo mi ritrovo a dover commentare un ulteriore salto di scala nella tossicità del discorso pubblico, e sto parlando naturalmente delle polemiche che vanno avanti ormai, perché insomma la vicenda è ormai di qualche giorno fa, su questo video generato dall'intelligenza artificiale in cui Luca Bottura, comico e giornalista, ma credo che forse a questo punto la categoria si possa definitivamente unificare, ma non solo per lui purtroppo, e in cui Luca Bottura fa dire allo storico Alessandro Barbero cose che lui non ha mai detto, il che va benissimo, sarebbe andato benissimo come operazione satirica, non fosse che il risultato di questa operazione è che oggi, perché le cose vanno sempre giudicate in base al risultato prima che al processo, dato che il watermark con la rivelazione che il video era stato generato dall'AI appariva solo negli ultimi 3 secondi, e dato che qualsiasi esperto di comunicazione, Bottura compreso, sa benissimo che nessuno va a vedere il video fino alla fine, i commenti vengono fatti dopo neanche 10 secondi, le ricondivisioni del video vengono fatte in modo del tutto acritico, ebbene un numero molto crescente di persone ormai è convinto definitivamente che questo storico Alessandro Barbero sia un putiniano di ferro. E non voglio nemmeno entrare nel merito di quello che viene fatto dire, perché il problema non è questo, cioè non è nemmeno il contenuto, non è nemmeno se essere d'accordo o no con ciò che Barbero sostiene nei suoi video reali e nelle sue apparizioni pubbliche reali a riguardo della storia dell'Ucraina, oppure addirittura credo che non abbia neanche granché rilevanza ciò che viene detto nemmeno nel video falso, perché il tema non è mai, io lo insisto sempre a dirlo, cosa è vero, cosa è falso, il tema è come si costruiscono le operazioni che hanno per preciso obiettivo quello di legittimare una figura pubblica, quando questa figura pubblica evidentemente comincia a diventare popolare in modo preoccupante, nel senso che finora è stato popolare in modo innocuo finché raccontava la storia del Risorgimento, anche possiamo dire forse la storia del fascismo, la storia delle Brigate Rosse. Abbiamo sentito tante storie raccontate da Barbero in modo mirabile. Il problema è che adesso è stato spesso chiamato in causa, non credo di sua iniziativa, però insomma su temi di attualità, a cominciare dalla guerra dell'Ucraina, e siccome Barbero, che non è solo uno storico medievale ma anche uno storico militare, tengo a sottolinearlo, ha detto cose che differiscono da uno dei due estremi, gli unici due che hanno visibilità sui media, cioè la posizione diciamo di Pina Bicerno da un lato e la posizione di Marco Rizzo dall'altra, perché ormai a questo siamo ridotti, siccome appunto ha osato dare popolarità e pubblicità a una posizione minimamente articolata e nemmeno super partes, perché non è questo il punto, semplicemente ha introdotto degli elementi in più, come ovvio che faccia uno storico rispetto al piattume della polarizzazione della nostra attualità, tant'è che vedete non è soltanto di uno storico che avremmo forse bisogno a questo punto, ma di chiunque non faccia il giornalista, di chiunque non insegua il presidio dell'attenzione e la polarizzazione, chiunque, uno psicologo, un filosofo, un sociologo, abbiamo bisogno di tutti, di antropologi, abbiamo bisogno delle sapienze ancora non contaminate da questo dramma del marketing, della ricerca delle eyeballs, e quindi sicuramente, visto che poi si tratta di una persona che ne sa e lo sappiamo, forse provare a dire ma c'è qualcosa di nuovo, anche se non torna con quello che io voglio far passare, magari rispondiamo per argomenti, no? Perché io per esempio magari non sono d'accordo con la posizione di Barbero sull'Ucraina, ma non, nel merito necessariamente, ma prima ancora nel metodo, nel senso che tutte le volte che si fanno parallelismi con la Prima Guerra Mondiale, si va su un terreno scivoloso, molto scivoloso, dove puoi essere immediatamente strumentalizzato. Si parla spesso di reductio a Hitlerorum, ma io aggiungerei alla categoria la reductio a Chamberlainorum, visto che come al solito si cercano analogie con circostanze che ovviamente andrebbero contestualizzate, ovviamente richiederebbero una profondità di conoscenza della storia contemporanea. Io non pretendo di essere uno storico, però quel minimo di studi, visto che mi sono laureato in scienze politiche con una tesi in storia delle relazioni internazionali con correlatore e relatori Lefebvre e Pastorelli, Pietro Pastorelli, stiamo parlando di uno storico vero, non un grande divulgatore, ma di un grande storico, che io credo forse di avere qualcosa da dire in più sull'argomento rispetto a Luca Bottura, con tutto il rispetto, visto che mi sono occupato appunto della storia, banalmente ho fatto anche la tesi, ho fatto gli esami molto difficili, vi assicuro che passare l'esame con Pastorelli era un'esperienza drammatica. Mi sono naturalmente documentato su tutti i conflitti più importanti, quelli dell'est europeo. In tutti questi anni più leggevo l'attualità, più leggevo i resoconti giornalistici e più avevo la netta sensazione di vivere in un mondo parallelo che non ha niente a che vedere con la comprensione profonda di quei fenomeni, no? Stesso discorso vale naturalmente sulla questione palestinese. Perché? Perché non c'è bisogno di una comprensione profonda, c'è bisogno del cherry picking. Si pescano i 10 argomenti che vengono usati, tipo arma spaziale nell'inevitabile conflitto che poi degenera negli insulti, e poi puntualmente ciascuno torna a casa, si lecca le ferite quando è stato appunto colpito e esulta invece per il male prodotto agli altri. Cioè è ridotto a questo il dibattito su una questione così importante. E Barbero, che invece prova a introdurre elementi di riflessione, ripeto, con cui si può anche non essere d'accordo, ok? E io semmai imputo il fatto di essersi fatto trascinare nella superficialità del dibattito d'attualità, ecco, arriva lui e io dico: vediamo se c'è qualcosa che mi può far, non dico cambiare idea, ma far riflettere su quelle che sono le mie convinzioni pregresse. Invece no, drammaticamente su entrambi i fronti, sia il fronte che mette tutti sullo stesso piano, che è abbastanza triste perché mi sembra abbastanza chiaro che Putin sia un aggressore, un criminale, sia il fronte che dice: quindi dobbiamo armarci tutti con i soldi dei bilanci dei singoli stati, ok? In un mondo militare dove anche il racconto è completamente embeddato e non ammette variazioni sul tema. Ecco, su entrambi gli estremi dello spettro non si fa un millimetro avanti, non c'è confronto. Chi è morto completamente è il dibattito. È veramente triste che non ci si renda conto che un'operazione di killeraggio, perché del personaggio pubblico Barbero, come è quella che è stata fatta attraverso questo video, produca effetti devastanti, no? Perché ovviamente il risultato è che in tutte le discussioni sono stati mobilitati sia i sostenitori del Marco Rizzo pensiero, sia i sostenitori del Pina Picerno pensiero, da una parte e dall'altra, e la discussione è puramente identitaria, cioè tutti capiscono da che parte devono stare in base alle proprie disinformate opinioni pregresse, e vengono sventolate come bandierine appunto questi eroi, da un lato Bottura, dall'altro Barbero, che naturalmente, come dire, o sono eroi che hanno partecipato all'operazione con l'obiettivo evidentemente di scalare un gradino sulla piramide degli eroi, oppure ci sono dei personaggi che già da prima hanno tanti sostenitori del tutto acritici, no? Come lo stesso Barbero, che ormai viene a sua volta utilizzato come figurina della posizione bastian contrarista, non saprei come altro definirla. E però appunto quando un personaggio di questo calibro, ecco, e non del calibro del normale ospite da talk show, finisce in questo tritacarne e si individua chiaramente la volontà, no, di trascinarlo in questo tritacarne per fini che evidentemente nulla hanno a che vedere con l'informazione, ecco, io non capisco come facciano soggetti che hanno sempre fatto della difesa del giornalismo una propria ragion d'essere, fino a organizzare festival, a costruire un sito di informazione finanziato dal crowdfunding, non riesco a capire come soggetti di questo tipo possano avallare e condividere un'operazione di sciacallaggio come è stato il video di Botture. Perché di questo stiamo parlando. E naturalmente questo non fa che aprire la riflessione in senso critico, no? Su tutto quello che è magari anche la volontà spassionata e genuina di cambiare il discorso sul giornalismo, fino a quando appunto questo processo in qualche modo abilita il racconto che vogliamo dominante, che vogliamo prevalente. E il problema è cosa succede a tutte queste nostre velleità quando accade una cosa che dovrebbe essere banale in un dibattito anche giornalistico in uno stato democratico, cioè il pluralismo. Soprattutto quando ti rendi conto che non paga. Il problema è questo, che il pluralismo non paga. L'unico tipo di informazione che ottiene sponsor, che ottiene sostegno, che ottiene adesioni, partnership, che ottiene relazioni, che ottiene budget, che ottiene donazioni, che ottiene, come dire, i Patreon di cui hai bisogno, è un'informazione che prometterà di essere sempre schiacciata sul fronte che si intende far prevalere. E non è evidentemente questo ciò di cui abbiamo bisogno, io credo, e soprattutto non è questo che speravamo che emergesse dalla adozione di massa di un mezzo a due vie come internet, di un mezzo che ha anche il canale di ritorno. Siamo tornati a 90 gradi ad accettare le logiche di chi ha solo il canale d'andata. Auguri e buona Pasqua a tutti. Io che so, oh,